GR24, il sole 24 ore. Giù le borse europee, Milano arriva a perdere oltre il 3%, spread sopra i 400 punti. Qualche applauso e molte critiche alla Alenia di Caselle, dove il ministro Fornero ha illustrato la sua riforma del mercato del lavoro. Presidenziali in Francia, Sarkozy sfida Hollande, non deve sfuggire ai tre dibattiti che gli ho proposto. Investigatori impegnati a guardare le immagini degli scontri di ieri a Genova, la questura, noi non volevamo che i calciatori si togliessero le magliette. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. È una giornata di forti cali quella di oggi sulle borse ed è da qui dunque che ripartiamo in apertura di questo GR24 e lo facciamo con Deborah Rosciani. Le borse europee continuano a trattare in calo, è leggermente migliorata la situazione rispetto alla mattinata, ma la seduta rimane ancora in difficile. Il mercato europeo risente del rallentamento dell'attività economica in Europa. Ad aprile è stato diffuso l'indice PMI sceso a 47,4 punti dai 49 di marzo, un dato peggiore delle attese. Pesano soprattutto le incertezze politiche in Olanda, dove è in corso una crisi di governo, e in Francia, con la qualificazione al primo turno delle elezioni presidenziali di François Hollande, delle quali parleremo diffusamente tra poco. Restano forti le tensioni sul mercato dei titoli di Stato, visti i continui timori sulla situazione del debito, nonostante l'ok del G20 all'incremento di risorse del Fondo Monetario Internazionale. Cosa vuol dire questo tradotto in percentuali? Che Parigi perde il 2,24%, che Francoforte perde il 2,74%, che Londra perde l'1,62%, che Milano perde il 2,31%. Milano è arrivata a perdere oltre il 3% questa mattina. Poi ha migliorato la sua situazione, qualche titolo ha cominciato a registrare performance positive, ma ne abbiamo appena tre adesso: Telecom più 0,2%, Diasorin più 0,19%, Campari più 0,10%. Per il resto vendite fortissime su tutte le banche e su molti titoli del settore industriale. E lo spread stamattina si è svegliato oltre i 400 punti base, rimane su questi livelli e è arrivato a 406, e direi che per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. E qualche piccolo, ma davvero piccolo, motivo di ottimismo è arrivato dalle parole del vice ministro dell'economia Vittorio Grilli nel corso di un'audizione alla Camera. Dopo la crescita negativa del 2012, nel 2013 ha detto ci sarà una ripresa debole ma positiva. In diretta, Elisabetta Fiorito. Eh sì, proprio così, Pierre. Il vice ministro dell'economia Vittorio Grilli ha negato poi che il governo voglia stringere ancora la morsa del fisco, che pensi a un'altra manovra correttiva. Nel corso di un'audizione alla Camera smentisce che siano previsti altri interventi fiscali, ma ascoltiamo Grilli. Per il 2013 ancora prevediamo una ripresa dell'economia nel positivo, con una crescita nel 2013 di 0,5, debole ma positiva, di 0,5 del PIL. Questa crescita dovrebbe rafforzarsi nel 2014 e nel 2015 con un 1% e un 1,2% nei due anni successivi. Non abbiamo in programma patrimoniali o altri interventi fiscali, ha poi detto il vice ministro, già è stato un forte intervento con l'IMU sul patrimonio immobiliare. Riguardo alla possibilità di una manovra aggiuntiva, Grilli risponde che neanche il Fondo Monetario Internazionale la chiede, anzi condivide le azioni messe in campo dall'Italia. La correzione dei conti pubblici è sufficiente. Riguardo alla crescita, dice, la grande fragilità e debolezza delle imprese italiane è la piccola dimensione e la poca patrimonializzazione. Le piccole imprese hanno avuto una strategia basata più sull'indebitamento che sulla raccolta di ricerca di capitali veri e propri. C'è poi il capitolo spending review, è importante, aggiunge Grilli, ma non dobbiamo illuderci, il taglio alla spesa non facilita la crescita. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Meno ottimistici decisamente i dati arrivati dalla Confcommercio. Nel primo trimestre 2012 calano le imprese in grado di fronteggiare il fabbisogno finanziario senza difficoltà. Solo un'impresa su tre è riuscita nei primi tre mesi dell'anno ad ottenere del credito senza difficoltà. Sono i risultati dell'osservatorio sul credito per le imprese realizzato da Confcommercio. È la prima volta che accade dal 2008. Il 48,6% delle imprese ha affermato in questa ricerca di essere stata in grado di far fronte ai propri impegni, ma con qualche difficoltà, mentre il 15% ha detto di non essere riuscita proprio a far fronte al proprio fabbisogno finanziario, in particolare l'accesso al al credito è stato un po' più facile per le imprese del nord-ovest, mentre resta molto grave la situazione registrata nel mezzogiorno. Cattive notizie anche per quanto riguarda la fiducia dei consumatori. Ad aprile ha toccato il punto più basso dall'inizio delle serie storiche, quindi dal 1996. Il dato passa dal 96 di marzo a 89 di aprile. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dentro l'assemblea dei lavoratori della Alenia di Torino con il ministro del lavoro Elsa Fornero. Fuori la protesta di alcuni sindacati. Sono qui non per convincervi, ma perché era importante la mia presenza. Con queste parole il ministro del lavoro Elsa Fornero si è rivolta ai lavoratori della Alenia Armacchi di Caselle Torinese. Durante l'assemblea di questa mattina il ministro è intervenuta sui temi della riforma. Articolo 18, nuovi ammortizzatori sociali e rioccupabilità dei lavoratori cinquantenni, i temi più contestati. Si deve andare allo sciopero generale, ha ribadito Giorgio Airaudo, a capo della FIOM regionale, alla fine dell'assemblea. Una discussione serrata, con varie interruzioni, ha raccontato, e con applausi di cortesia a fine intervento. Al centro della discussione anche il tema degli esodati. La stessa Alenia ha sottoscritto un accordo l'8 novembre scorso per l'uscita anticipata di oltre 700 lavoratori, 1500 in totale negli ultimi 2 anni. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E a Bologna la sentenza del processo d'appello per il crack della Parmalat. Quando la corte è uscita, l'ex re del latte non era lì in aula ad ascoltare il verdetto, ma è rimasto in cella, dove sta già scontando una condanna per aggiotaggio ormai definitiva. Per Callisto Tanzi, l'ex patron della Parmalat, 17 anni e 10 mesi è la pena stabilita dalla corte d'assise d'appello di Bologna nel processo per la bancarotta da 14 miliardi di euro che inghiottì i risparmi di centinaia di italiani. Quelle scuse e quel mea culpa pronunciato con un fil di voce dall'ex cavaliere di Collecchio, 73 anni, in aula a fine marzo, non sono bastate a modificare una sentenza che per Tanzi è solo di 14 mesi più lieve rispetto a quella di primo grado. Più forte invece, da 14 a 9 anni, è la riduzione di pena per l'ex direttore finanziario della società Fausto Tonna. 9 anni dopo, dunque, la scoperta del più grande crack d'Europa, un solo grado manca prima del giudizio finale, mentre il mese prossimo altri giudici, quelli del Tribunale di Sorveglianza, torneranno a valutare se il carcere sia compatibile o meno con le condizioni di salute dell'ultra settantenne Callisto Tanzi, che dal 2003 ha fatto più volte la spola tra la cella e l'ospedale. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Mi auguro che il governo vada avanti sulla modifica della prescrizione del finanziamento pubblico ai partiti. La sollecitazione arriva dal commissario europeo agli affari interni Cecilia Malmström. L'hanno intervistata Gigi Donelli e Raffaella Calandra. Ho un'ottima collaborazione con il nuovo governo italiano e, come lei diceva, oggi parleremo di immigrazione, di confisca dei beni, asilo, vedere quelle che sono le esperienze dell'Italia in tutti questi settori e altri argomenti connessi come Schengen e integrazione. Quindi ho 2 giornate molto intense qui in Italia e sono certa che avremo un dibattito molto interessante. Da Bruxelles, in particolar modo dalla Greco, è arrivata in Italia una segnalazione, un invito ad una modifica della normativa sul finanziamento ai partiti e dall'altra parte anche una segnalazione per cambiare i termini di prescrizione dei reati, in particolar modo legati alla corruzione. Ci saranno altre iniziative da parte dell'Europa nei confronti dell'Italia su questi specifici temi? Assolutamente, sì, queste iniziative sono molto importanti. Mi auguro che il governo possa portarle avanti a livello di Parlamento. Sono molto importanti per contrastare la corruzione, per aumentare la credibilità dell'uso ufficiale del denaro, ma anche per le istituzioni. E torniamo alla pagina giudiziaria italiana. Nega di aver fatto sesso con Silvio Berlusconi, ma al telefono con un'amica confessa: Silvio mi dà quanto voglio. Parla così Ruby, l'allora minorenne marocchina protagonista dell'ultimo processo a carico dell'ex premier, imputato per concussione e prostituzione minorile a Milano. Nei giorni in cui un anno fa lo scandalo scoppiava, la giovane raccontava agli amici che l'ex premier le aveva detto di fare la pazza. Mi dà quanti soldi voglio, racconta. Ecco un estratto audio delle intercettazioni depositate agli atti e pubblicate oggi dal sito repubblica.it. È che te l'avevo raccontato che io conosco Silvio, praticamente niente, sta uscendo il fatto che io sono amante di Silvio. Ah. Silvio mi ha chiamato ieri dicendomi: Ruby, ti do quanti soldi vuoi, ti ti pago, ti metto tutta in oro, ma l'importante è che nascondi il tutto, non dire niente a nessuno. Ma lo conosci in che senso, scusa? Che vado a casa sua, cioè siamo amici da un anno. Sì, ma proprio amici? Sì, solo che la gente pensa subito al male perché vedono una ragazza bella che va a casa di Silvio, lui che la riempie di soldi perché ogni settimana mi dava 47.000 euro a settimana, dicono perché fa tutto questo per lei, perché comunque avrà avuto qualche cosa, avrà fatto sesso, non è così. E ci trasferiamo in Francia il giorno dopo il primo turno delle presidenziali. Secondo i risultati ormai definitivi, Hollande è al 28,63%, Sarkozy al 27,18%, Marine Le Pen terza forza con il 17,9%. E noi ci colleghiamo con Parigi e con il collega del Sole 24 Ore, Marco Mussanè. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Allora, i dati sono questi, qual è l'umore oggi dei francesi, soprattutto in relazione forse a questo quasi 18% di Marine Le Pen? Beh sì, sicuramente questo è l'elemento sorpresa del voto di ieri ed è sicuramente anche il dato più interessante da analizzare in vista del secondo turno, perché certo il modo in cui voteranno gli elettori del Fronte Nazionale della Le Pen sarà avrà un ruolo chiave nella vittoria al secondo turno. Sarkozy stamattina ha insistito, voglio vedere Hollande, non deve sfuggire ai tre dibattiti che gli ho proposto. Ci saranno dunque questi tre dibattiti televisivi? Secondo te sarà interessante? No, mi sembra molto difficile che ci siano i tre dibattiti. La tradizione delle elezioni presidenziali prevede un dibattito televisivo tra il primo e il secondo turno, è sempre stato così, c'era un sostanziale preaccordo in questo senso, la data è già stata fissata per la sera del 2 maggio, è ovvio che Sarkozy che in un dibattito televisivo testa a testa può avvantaggiarsi per l'esperienza di governo accumulata in questi 5 anni, per una certa aggressività nello scontro diretto, vorrebbe un maggior numero possibile di dibattiti. È comprensibile che Hollande rifiuti confermando quella che è stata la tendenza degli ultimi anni. Giù le borse europee, Milano arriva a perdere oltre il 3%, spread sopra i 400 punti. Qualche applauso e molte critiche alla Alenia di Caselle, dove il ministro Fornero ha illustrato la sua riforma del mercato del lavoro. Presidenziali in Francia, Sarkozy sfida Hollande, non deve sfuggire ai tre dibattiti che gli ho proposto. E ripartiamo in questa seconda parte di GR24 dalle proteste e dalle indagini e della bruttissima giornata di ieri a Genova. Molti di quei volti di tifosi arrampicanti sull'imboccatura degli spogliatoi sono stati riconosciuti già ieri sera dai poliziotti della Digos. Si tratta di nomi già noti agli archivi della questura per il coinvolgimento in altri episodi di violenza in occasione di partite del Genoa. Attraverso l'analisi dei video di TV e scientifica, i poliziotti devono ora stabilire le responsabilità individuali sulle quali articolare i provvedimenti. Denunce a piede libero, DASPO, ma forse anche arresti in flagranza differita, cioè 36 ore dopo i fatti. Il questore di Genova, Massimo Mazza. Stiamo valutando e lo vedremo. Abbiamo ancora del tempo davanti per quanto riguarda l'esecuzione di eventuali provvedimenti. Le decisioni le prenderemo quando avremo davanti una situazione ben chiara sulle responsabilità dei singoli. Dalle indagini è emerso che per raggiungere l'imboccatura degli spogliatoi gli ultra hanno sfondato una porta di sicurezza e ferito lievemente uno steward. L'addetto alla sicurezza è stato convocato in questura. La sua testimonianza è al vaglio della Digos. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. Questo è dunque il punto sulle indagini e uno dei punti dolenti della vicenda è che non ci sarebbe stata sintonia fra forze dell'ordine e società. È così, Dario Ceccarelli? Sì, Pia, dici bene, la polizia non era d'accordo nel far togliere le maglie ai giocatori del Genoa. Il questore Massimo Mazza lo ha ribadito anche stamattina, confermando che il vicario della questura ieri pomeriggio lo aveva ripetuto 2 volte alla società, perché far togliere le maglie era ritenuto un gesto ricattatorio che andava respinto. Mazza ha anche detto che la polizia era in grado di garantire la sicurezza ai giocatori. 2 punti di vista quindi molto diversi. La polizia con contraria, la società disposta invece a trattare con gli ultra. Ma rispetto alla versione della questura, il presidente Preziosi del Genova glissa, sentiamolo. No, io non rispondo assolutamente niente perché non voglio alimentare polemiche, ho già detto quello che dovevo dire ieri. Quindi il fatto così di chi ha detto e chi non ha detto a me interessa poco, a me interessa il fatto più rilevante, che quello di 60-70 facinorossi che prendono uno stadio con 25.000 persone. E questo è l'argomento. Se vogliamo parlare invece di forze dell'ordine, io mi rifiuto assolutamente, anche perché credo che in campo ci sia stata la collaborazione totale da parte delle forze dell'ordine, perché poteva anche accadere qualcosa di poco piacevole. In realtà rimangono molte zone d'ombra. Anche il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, difende l'operato della polizia. Sentiamo. Credo che sia troppo semplicistico addossare la responsabilità alla polizia. Va guardato nel suo insieme, va guardato tutta la struttura dello stadio e anche l'organizzazione che c'era sul momento. Ma io credo che la polizia abbia agito con molto equilibrio. Per oggi intanto sono attese le decisioni della giustizia sportiva. È probabile che Genoa riceva una pesante squalifica del campo. Una squalifica che tra l'altro non dispiace a Preziosi, che dice voglio salvare Genoa ma lontano da Marassi. Che sia stata una pagina nera del calcio italiano non ci sono dubbi. Siamo a un punto di non ritorno, ha commentato il presidente del CONI Gianni Petrucci. Lo sport viene rovinato dagli esaltati e da certi presidenti di società, ha detto lo stesso Petrucci, criticando senza giri di parole l'operato del presidente Genoa. Critico nei confronti del vertice della società anche Giancarlo Abete della FIGC. Non è pensabile, ha detto, che il mondo del calcio ceda a un ricatto senza ribellarsi. Questi episodi vanno denunciati, altrimenti scatta un meccanismo omertoso che può creare molti danni. Grazie. Questo per il momento è tutto. Grazie a Dario Ceccarelli. Ma per fortuna ieri non ci sono stati solo gli scontri di Genova, il campionato è infatti va avanti e la Juventus ipoteca lo scudetto. Carlo Genta. Sì, in effetti è così, Piera. È stata una giornata, al di là dei fatti di Genova, importantissima sulla via dello scudetto. La Juventus allunga le mani sul titolo, strapazzando, asfaltando la Roma 4-0, ma la partita si è chiusa subito con la doppietta di Vidal. Poi Pirlo e Marchisio hanno confezionato il fiocco, che diventa una sorta di corda al collo del Milan, che invece raccoglie un altro pareggio interno con una squadra in media classifica come il Bologna. A 5 giornate dalla fine il Milan è a meno 3 dalla Juventus, che si regge a meno 4 perché la Juventus ha anche il vantaggio dei confronti diretti. Dunque bianconeri adesso favoritissimi. Tra l'altro, come sappiamo, si torna subito in campo, domani si apre la giornata che era slittata domenica scorsa per i fatti relativi al povero Morosini. Si comincia già domani con Atalanta-Chievo e Cagliari-Catania e si chiude mercoledì alle 18 con i due posticipi che riguardano proprio la Juventus e il Milan. La Juventus a Cesena e il Milan in casa con il Genoa, quindi due partite molto importanti per vari motivi, non solo calcistici, Piera. Grazie anche al nostro Carlo Genta. E noi voltiamo pagina perché questa mattina si è tenuta un'operazione contro il terrorismo islamico della polizia di Cagliari, sentiamo. L'arrestato, un operaio di Cagliari che si preparava a fuggire in Marocco, è un italiano convertito, così come lo sono 7 dei 10 indagati, tra loro un insegnante di lettere, nell'operazione scattata questa mattina contro il terrorismo islamico e partita dalla polizia di Cagliari. Traducevano e diffondevano in rete materiale di ispirazione qaedista e facevano proseliti, tanto da spingere qualcuno molto vicino all'azione. Alfonso Polverino, dirigente della Digos di Cagliari. Questa indagine ha avuto, diciamo, una sua definizione già nello scorso mese, a marzo, quando è stato arrestato a Brescia un cittadino marocchino, Jarmoul Mohamed. Quel soggetto infatti era divenuto più operativo, per cui si era deciso ovviamente di fermarlo. Era l'uomo, un ventenne intenzionato a colpire la sinagoga di Milano, un'indagine che aveva portato anche all'arresto di una donna a Londra. Ma ci sono contatti con l'estero della rete scoperta oggi? Guardi, loro lavoravano esclusivamente su rete, quindi non lo possiamo ovviamente escludere che avessero contatti con l'estero e con soggetti residenti all'estero. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Apriamo ora una pagina dedicata alle auto. Fra poco sentiremo quali sono le novità dal Salone di Pechino. Prima però le novità che riguardano invece i nostri futuri patentati, i diciassettenni, perché da oggi o quasi cambiano le regole. Da oggi in teoria si può guidare un'auto anche a 17 anni. Ma nella pratica si attenderà almeno qualche settimana ancora. Occorre prima presentare una domanda alla motorizzazione, poi frequentare un corso pratico di almeno 10 ore in un'autoscuola e infine dovrà arrivare l'autorizzazione alla guida, sempre da parte della motorizzazione. Tutto ciò vale solo per chi ha già preso la patente A, quella per le moto 125 che si può conseguire a 16 anni. Chi non ce l'ha oppure ne ha subito la sospensione o la revoca è escluso dalla possibilità di guidare vetture. Verrà appiedato pure chi con l'auto compie infrazioni da sospensione o da revoca. Chi sarà autorizzato sarà sostanzialmente nelle condizioni di un diciottenne candidato alla patente, cioè dovrà avere a fianco un adulto in qualità di istruttore. Le uniche differenze sono che l'auto dovrà essere di quelle poco potenti, guidabili anche dai neopatentati, e che i nomi degli adulti dovranno essere riportati nell'autorizzazione. Maurizio Caprino, GR24, Il Sole 24 Ore. E allora sentiamola adesso le novità dal Salone dell'Automobile di Pechino. Torniamo in Cina dopo due false partenze, ma stavolta facciamo sul serio. Sergio Marchionne è sbarcato a Pechino questo fine settimana con l'intero stato maggiore del gruppo Fiat. Stamane al Salone l'azienda italiana ha presentato la Fiat Viaggio, primo frutto della joint venture con la cinese GAC. La Viaggio è uno dei prodotti più internazionali del lingotto. Prodotta in Cina nella nuova fabbrica di Changsha, nasce sulla piattaforma americana della Dodge Dart, a sua volta figlia di quella dell'Alfa Romeo Giulietta, e rielaborata poi al centro stile Fiat di Torino. Fiat torna in Cina in un momento delicato per il maggior mercato mondiale. Dopo anni di crescita a due cifre, nel primo trimestre del 2012 le vendite di automobili sono aumentate solo del 4%, per effetto del rallentamento economico pilotato dal governo. Un rallentamento che non si fa sentire né all'interno del salone né all'esterno, dove il traffico è sempre più infernale e l'aria sempre più grigia. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pechino. In occasione della giornata mondiale del libro che si celebra oggi, parte in Italia l'iniziativa Il Maggio dei Libri, organizzata dal Centro per il Libro e la Lettura. Tantissime le iniziative, da un gruppo di lettura in carcere a ragazzi di un liceo che leggono e mimano un libro per i bimbi delle elementari, dalla creazione di book trailer degli studenti delle superiori a giornate dedicate al book crossing, cioè allo scambio dei libri. Tutte le informazioni su www.ilmaggiodeilibri.it. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.